Europa 24. Buongiorno a tutti, un saluto da Gigi Donnelli. Dunque, avete sentito in apertura le notizie che ci riportano e ci raccontano l'Ucraina di queste giornate davvero complesse sul fronte europeo, nel senso di Bruxelles. Vi ricordo ieri la decisione del Consiglio straordinario dei ministri dell'UE che ha deciso l'introduzione con urgenza delle sanzioni mirate. Insomma, un tentativo di spingere, di premere sull'amministrazione di Kiev, cominciando evidentemente dal presidente Yanukovych, senza chiudere la porta. Ecco, sulle novità della cronaca continueremo a darvi aggiornamento, come stiamo facendo ormai da giorni, nei nostri giornali radio. Partirei subito allora da un'intervista che riguarda una figura molto popolare nel paese. Stiamo parlando di Yevgenia Timoshenko, quindi la figlia di quella che è stata la leader dell'opposizione ucraina, Yulia Timoshenko. Yulia Timoshenko è stata primo ministro due volte, ancora fino al 2010, primo ministro e emblema di quella che veniva chiamata a suo tempo la rivoluzione arancione. Oggi in carcere, in condizioni molto difficili. Alessandra Schepisi l'ha incontrata questa mattina, ha incontrato la figlia Yevgenia Timoshenko a Roma e sentiamo subito che cosa l'hai raccontato. Well, we're first of all very thankful that European Union stood as one force finally to introduce the sanctions, and we spoke about sanctions for months. And innanzitutto siamo molto grati all'Unione Europea per il fatto che finalmente saranno introdotte le sanzioni di cui si parla da mesi, se non da anni. Ora è evidente chi è responsabile delle violenze, dei bagni di sangue, dei prigionieri politici, e quindi queste sanzioni sono assolutamente necessarie. Siamo grati all'Unione Europea per l'azione in questo senso, così come per l'impegno nel risolvere la crisi in Ucraina, e questo accordo che è stato raggiunto è una grande opportunità, una grande chance per il cessate il fuoco, per il cambiamento politico e per la rimozione di Yanukovych e della sua dittatura, del suo governo e della sua gente. Of course we hope that the monitoring of the implementation of the agreement that was reached last night. E ovviamente ci aspettiamo dall'Europa un costante monitoraggio sull'attuazione di questo accordo, perché solo in questo modo potrà esserci una garanzia. Ci aspettiamo poi che le sanzioni sulle quali si è trovato un accordo nel Parlamento europeo a livello dei ministri degli esteri vengano introdotte immediatamente, senza aspettare che arrivi il cambiamento politico, perché le violenze e le uccisioni sono già state commesse dalle autorità dell'Ucraina e non possono essere dimenticate. Ci aspettiamo anche che Yanukovych venga processato per crimini contro l'umanità e che questo avvenga immediatamente. Yevgenia Timoshenko, dunque intervistata e doppiata da Alessandra Schepisi, figlia di quella che è stata la prima donna primo ministro nella storia appunto dell'Ucraina. Dal 2007 al 2010 infatti ha ricoperto appunto la carica di primo ministro. Sempre sul fronte, diciamo, di questa drammatica crisi in Europa, resta la segnalazione e resta con la squadra, ma si ritira dalle gare di slalom dei giochi di Sochi Bogdana Matsoska, la sciatrice ucraina che ieri aveva annunciato appunto via Facebook l'intenzione di lasciare i giochi olimpici. L'abbiamo raccontato, una vera e propria lacerazione anche all'interno del team olimpico. 20 su 43 degli atleti e delle atlete ieri erano pronte a fare i bagagli e a tornarsene a casa. E ora cambiamo tema e completiamo questo viaggio che la nostra Laura Bettini ha realizzato in questa settimana sui temi ambientali, in particolare sugli sprechi alimentari e non solo. Ecco l'ultima tappa, ecco perché, ci racconta Laura Bettini, la Commissione ha varato una campagna specifica che si chiama Generation Awake. Tutti i rifiuti ci preoccupano, ma lo spreco di milioni di tonnellate di cibo è folle se consideriamo quante persone al mondo hanno fame. Così diceva Joe Hannon, portavoce del commissario all'ambiente Patochnik, parlando di Generation Awake. Il primo passo per non finire sommersi dai rifiuti è imparare a riciclare. Certo, per gli scarti alimentari vale fino a un certo punto, ma per tutto il resto Generation Awake ha lanciato anche un concorso diretto ai creativi europei under 40. Vogliamo promuovere una migliore gestione dei rifiuti sfruttando la creatività dei giovani, ci spiega Astrid Ladefodeg della Direzione Ambiente della Commissione. Cerchiamo idee e proposte nuove per riciclare qualsiasi tipo di oggetto, dai giocattoli alle scarpe. Le proposte possono essere presentate entro il 14 marzo. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E come sempre ritrovate tutto sul web. Vi ricordo domani alle 10 l'appuntamento con l'altra Europa, con la nostra rassegna stampa. Invece in precedenza è il nostro Euroreportage dedicato al tema degli OGM, una questione molto delicata sulla quale l'Europa sembra non riuscire a prendere una decisione. Europa 24 invece torna lunedì. Un saluto a tutti. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.